Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Come ogni giorno a mezzogiorno continuiamo a monitorare le mosse del coronavirus. In linea con noi il professor Carlo Federico Perno, ordinario di microbiologia e virologia all'Università di Milano e direttore del Dipartimento di Medicina di Laboratorio all'Ospedale Niguarda di Milano. Professor Perno, buongiorno. Buongiorno a lei. Professor Perno, i numeri dei casi sono in continuo aumento in tutte le regioni del nostro paese. A fronte di questa situazione, ci sono dei segnali che ci possono far capire se le misure di contenimento stanno dando dei risultati, stanno funzionando? Il monitoraggio continuo dei numeri ci aiuta a capire dove stiamo andando. È chiaro che una malattia, un'infezione recente è una malattia recente. Noi continuiamo a vedere i casi che c'erano già, cioè noi continuiamo a fare diagnosi, sempre più diagnosi, quindi i numeri salgono per questo, perché vediamo coloro che si erano già infettati, che si sono già infettati. La nuova ondata è prevista per dalla settimana prossima, quindi i numeri veri e propri per capire se il contenimento sta funzionando o meno li vedremo dalla settimana prossima. Chiaro che noi continuiamo a vedere numeri che aumentano, questo fa paura, però non dimentichiamo che sono valutazioni che derivano dall'aumento dei test che abbiamo fatti. Lo stiamo cercando questo virus e chiaramente lo stiamo anche trovando. Io sono moderatamente ottimista nel medio termine. Adesso sicuramente avremo un aumento dei casi per le ragioni che abbiamo appena detto. Professor Perno, a mano che il virus, che sappiamo di origine animale, si adatta all'uomo, l'infezione che produce diventa più grave o meno grave? E questa è una domanda molto interessante, perché è un coronavirus che chiaramente viene dagli animali, che si sta adattando all'uomo, e l'adattamento non è ancora completo, richiede tempo perché un virus si adatti all'uomo, però è già molto contagioso tra gli uomini. Ciò che i virus fanno di norma è di aumentare la loro infettività, ma non la loro capacità di indurre malattia. Non dimentichiamo che il virus più intelligente è quello che replica nell'uomo senza dare malattia, perché chiaramente replica di più, è presente per più tempo. Quindi è ragionevole pensare che nel tempo questo virus potrà adattarsi sempre meglio, ma non necessariamente questo aumenterà la patogenesi, cioè la malattia vera e propria. Potrebbe aumentare il fatto che infetti, ma non tutti i virus che infettano danno malattia. Noi abbiamo tantissime evidenze nel nostro campo su questo. I virus che infettano e che danno malattie, pensiamo ad Ebola, pensiamo al virus influenzale, pensiamo all'HIV, sono una ristretta minoranza rispetto a quelli che vivono insieme a noi. Questo potrebbe adattarsi ma fare sempre meno danno. Bene, per oggi è tutto. Tra poco vi aspetto in diretta Facebook. La puntata di oggi è dedicata alla nostra vista. Parleremo però anche di congiuntiviti, di occhio secco, di lacrime ai tempi del coronavirus. Insieme a noi il professor Claudio Azzolini, oculista presso l'Università degli Studi dell'Insubria di Varese. Mentre la programmazione di Radio 24 prosegue come sempre con Melog. Buona giornata da Nicoletta.